di lavorare in quel settore, però l'avrei fatto volentieri, ecco. Sì, sono a casa, non me ne rompo, in cambio. Chi è, avanti. Lavoro sempre, adesso sono barra fissa, non me ne rompo, in cambio. Adesso già ti sento bene, no? Devi uscire anche perché più in alto rispetto alla macchina e cambia. È lo stesso apparato? Lo stesso apparato l'ho tolto dalla PM e l'ho piantato qua. Ehi, dalle mie parti, dai, arrivi a 7, Santiago 7, radio 5, dai. Bella squillante. Aspetta che ti passo al torello. Ehi, anche da parte lì, Santiago 7, radio 5, è bella squillante, è perfetta, perfetta e pulita. A voglia, ce n'è, ce n'è. Giustamente a casa, secondo dove esci, dove vai in macchina, prende bene, secondo dove ti sposti, giustamente il segnale è sempre più basso, ma questa con l'antenna fissa rig cambia sempre, sempre un po' più forte. Oh, Massimo. Ti lascio, nel caso ci sentiamo dopo, è pronta la ricarica, ma più tardi, buon proseguimento. Ciao, ciao, ciao, salutami tutto Rossi. Via, partendo da Alex. Vabbè, ciao, ciao. Io che da già ci sentiamo nei prossimi, anche io chiudo. E qua è pronto anche qua, oggi mangio e dopo mi guardo un filmetto. E domani mattina sveglia alle 4, come sempre. Camionista? Lei lavora alla testa urbana, quindi siamo alle 5, mi alzo sempre, sempre alle 4, non alla prima. Va bene, d'accordo, ciao ciao, se